La gente mi guarda e mi dice: anche tu sei come loro, anche tu vuoi fare parte dello stesso cerchio. Sei volgare, dici cazzate, insomma spari solo un mucchio di stronzate. Ma ti dico, la differenza è in quello che sta dentro. La differenza sta che quello che io dico è quello che io sento. Non sono come voi, se non mi vuoi fai i cazzi tuoi. Non ti dico di ascoltarmi, se tu che vuoi imitarmi. Sono calmo e sano, non sono falso umano. Vivo con pochi problemi, ho seni, poveri scemi. Ho genitori, vedo colore di altri armi, no fiori. Non vedo tutti i salami, preferisco i legami. Nessuna canna, una roba, sto su una capanna con droga. No, è di normale, non mi pare male. Volete sentirmi dire battona, mentre siete in poltrona? A dire che bomba, chissà come tromba, silenzio ritomba. Avete sbagliato, non sono matto, sono ingrato. Né un pesce, nemmeno un tocco, e sono qua nel corpo che godo. Io non sono come voi, per fortuna morirei. Ma non sono come voi, se non fossi che farei. Io non sono come voi, se lo dico io lo sento. Ma non sono come voi, puoi dirmi tutto ma non mento. Io non sono come voi, per fortuna morirei. Ma non sono come voi, se lo fossi che farei. Io non sono come voi, se lo dico io lo sento. Ma non sono come voi, puoi dirmi tutto ma non mento. Se dovessi rimanere in zia lo farei con zia, perché non conosco la polizia. Io non vivo tra la pazzia, ho fatto razzia di follia. Così nella cripta ci resta solo zia tibia. Critio, sono giunto al nuovo video. Delirio, voi volete che scateno un po' di ferie. Sono Rio dell'Amazzonia in ferie, prega Dio che non faccio macerie. Io come mio zio rendo comiche le cose serie. Le sonde, le terre, le lascio ricedere gem. Le mie gemme, 5 stelle, perenne nelle scene belle. Sono di classe, come le casse, smuovono masse. Persone malate, turbate, turbate. La tinti da spritz, col vizio del beat. Gente che vive sta shake, sente bisogno di videoclip per sentirsi chiamare vivo. Lucignolè, Lucifero, lo brucerei con un fiammifero. Ora ero bravo a scuola, ancora io non bravo Roma, ancora io non arrancavo in coma. Allora essere una suola, non vado in coda, crea la moda, moda è nata, Imola. Amo della persona frivola, modo mio solo una critica. Amo dominio, parola tipica, amo bovigno per gente estetica. Ah, ho nomina mini in anonima lirica. Io non sono come voi, per fortuna morirei. Ma non sono come voi, se lo fossi che farei. Io non sono come voi, se lo dico io lo sento. Ma non sono come voi, puoi dirmi tutto ma non vento. Io non sono come voi, per fortuna morirei. Ma non sono come voi, se lo fossi che farei. Io non sono come voi, se lo dico io lo sento. Ma non sono come voi, puoi dirmi tutto ma non vento. Non posso stare fermi, il rap è il mio centro. Perché mi rap brucia dentro. Sono un portento, senza commento. Vado addosso a chi mi viene contro. Subito scontro, senza ascolto, attento, sento l'incontro. E non è vero che non c'è abbastanza carne sul fuoco. Non è vero che sono troppo buono, il mio rap è vuoto. Perché se voglio so parlare pure io senza scopo. Così dopo comincio a rappare, di strappare lo scopo. Vince il mene, vingio, faccio, faccio cose che Sergio non farebbe scalcio e calcio. Vara spazio, sa spasso, che spasso io collasso. Collasso nella manica, getto l'ultimo sasso. E fracasso il tipo basso, faccio sconquasso e passo l'asso finché non c'è più lasso. Io non sono come voi, così io vi mentirei. Riderei allo stesso tempo, impazzirei in un momento. Io spaccherei quello che sento, se fosse un impedimento. Il mio non è tradimento, su questo tempo dico solo ciò che sento. Io non odio chi ha problemi, poveretti se son veri. Maledetti quegli stronzi che mi parlano da ieri. E che ora sono fieri, per voi solo per i io pensieri. Io non sono come voi, per fortuna morirei. Ma non sono come voi, se lo fossi che farei. Io non sono come voi, se lo dico io lo sento. Ma non sono come voi, puoi dirmi tutto ma non vento. Io non sono come voi, per fortuna morirei. Ma non sono come voi, se lo fossi che farei. Io non sono come voi, se lo dico io lo sento. Ma non sono come voi, puoi dirmi tutto ma non vento. Io non sono come voi, no non sono come voi. Io non sono come voi, io non sono come voi. Io non sono come voi, no non sono come voi. Io non sono come voi.